zucchina, zucchina, ha, ha, mi sento birichina, birichina, ha, ha, mi piace la zucchina, zucchina, ha, ha, mi sento birichina, birichina, ha, ha, ha. Vieni qui, ti spiego la mia dieta, non ce n'è un'altra più completa. Più verdure, sempre dure, ma che non siano troppo mature. E di frutta in gran quantità, la banana riempie si sa. Ma la mia migliore amica non mi delude mica. Questo non si sente. Sì, ti sento io. Ah, io non mi sento. Ah, okay. Ma voi lo conoscete il contrario di accentrato? Decentrato. Starsky è uscito. Ciao. Ciao. Ciao. Sì, mi sento. Mi sentite? Yes, yes, yes, yes. Dalla regia mi sente? Mi ci sentiamo. Io ti sento. Come vi sentite? Ah, io non Ah, ma io abbastanza bene, ho avuto un po' di influenza. Sì. Vabbè. Come? Ma. Allora, siamo tornati, ma non abbiamo spammato. Io non mi sento nelle cuffie, vi volevo dire questa cosa qua. Tu mi senti, Peppe, nelle cuffie? Io non mi sento, potrei essere diventata sorda, però siccome mi sento la mia voce all'esterno, quindi vuol dire ma che non senti? Sono del tutto sorda. Non so, sei? Forse Peppe mi sente. Peppe mi senti? Non mi sente Peppe. Peppe, pronto? No, Peppe, Peppe, Peppe. Io ti sento. Preppone. Io ti sento, non gridare. Ah, ok, adesso ci sentiamo, perfetto. Ma qualcuno sa... Oh mio Dio, adesso mi sento anche troppo. Ma qualcuno sa se sull'internet si sente? Qualcuno controlla se fuori onda radio si sente sull'internet? Non è niente. Che tristezza. Amici, siamo in onda. Siamo in onda. Ci sentiamo. Ci sentiamo, sì. Sì. Ci sentiamo bene, sì. Sì. Non magari come i pinguini, però. Che è successo ai pinguini? Perché non si sentono bene? Perché dici che c'è i leoni marini che sono abbramati, che le leonesse marine si hanno fatto uno sciopero. Praticamente, stando sempre insieme le donne, hanno il ciclo insieme, quindi le leonesse marine, che il ciclo dura 12 anni, hanno tutte quante il ciclo in questo momento, e i leoni marini maschi per 12 anni non possono trombare, allora hanno pensato bene di fare come alcuni porno star degli anni 70, di farsela con altri animali. E allora hanno scelto i pinguini che non riuscivano a scappare. E tu immagini questi due marini che si muovono tipo altri che... Come ciccio? Che vanno i pinguini e vanno... Ti prendo, culetto. E quindi... Come, scusa, l'ultima parte? Il culetto no. Il culetto è mio, è ecco, mio. Ma vogliamo, questa è una di quelle notizie, ecco, dicevo subito, l'ha mandata, ma era una di quelle notizie che rientra nella rubrica... Le grandi inchieste di Repubblica. Ciccio Popo freme. Sì, perché questa la voleva dire assolutamente. Tra le grandi inchieste di Repubblica c'è cioè, proprio. Che c'è, Andrea? Che c'è? C'è Andrea che... Sì, è una partenza un po' turbolenta. Oh, invece dalla Pondomotori abbiamo una novità. Ci stavo dicendo una cosa. Non mi devi sempre interrompere. Stavamo dicendo una cosa. Nuova Suzuki Celerio. La macchina del celerienio. Ecco, dicevo, non mi devi sempre interrompere. Ecco, iniziamo sempre su così. Su Facebook che... c'è scritto che Ciotia Dall'Etere ha raggiunto 7 persone con questo post. Eh? Oh mio Dio, ma come li ha raggiunti? Come li raggiungiamo? Peccato. Come dici, scusa? Dobbiamo passare la voce? Dobbiamo passare la voce. Ci censurano. C'è gente che studia qua. Come è stata raggiunta questa cosa? Quale cosa? Queste 7 persone. Purtroppo sì, perché non sto. Non lo so come. È un sono po' come raggiungere tipo. Come so, le stelle, le comete. Le comete. Nirvana. Le comete. Le comete. sì. La cometa. La cometa. Cos'è sempre la cometa? È il simbolo del Natale. Te l'ho imparato a memoria. Sì, certo. E come fai a non imparare a memoria? La cometa è proprio con la scia luminosa, è proprio che, il simbolo del Natale. Che era quella stella luccicante che mostrava la via ai viandanti e ai contadini, ai re magi verso la grotta della Natività. Però quei brutti e cattivi dell'Agenzia Spaziale Europea ci vogliono rovinare, ci vogliono rubare il Natale, Mary, ce lo vogliono rubare. Merda, merda, merda, cicciopù. Comunque ce novità dal Job Act, non so se avete letto. Praticamente adesso si può anche licenziare senza giusta causa, però Renzi per accontentarci tutti noi amici. Ma cos'è sta base? Pianista. Ma cos'è sta base? Abbiamo a Levi proprio qua, non lo vedete? Da quel giorno in cuori giorno davvero cielo, il posto in cui siamo. Ah sì, questa era una di quelle canzoni a minchia tipo di Albi. Di Albi. Sì, precisamente Forced Fat Nico. Bravo Peppe, portala anche a noi una. Ragazzi, ma perché stiamo facendo 3 metri sopra? Ragazzi, ma perché stiamo facendo questa puntata a minchia? Scusate. Allora, vogliamo serie, stavo dicendo che manca Flavia, manca Flavia. Ecco, vogliamo per favore. Ma vogliamo parlare di questo Job Act. Stai zitto 10 secondi della tua vita. Ma guarda che la vita non è una scaletta che va avanti. Sì, invece, caspita, perché c'è gente che facciamo, c'è gente che ci sta ascoltando. E ascolta, allora, no, ci sta ascoltando, non sta ascoltando solo te. Allora, vogliamo salutare, vogliamo salutare. Se uno voleva leggere sulla scaletta, se la leggeva sul computer. Mannaggia la Madonna. Litigi coniugali online. Allora, Amarri. Come? Una A? Ti lancio una A? Andiamo, ya. Allora, ragazzi, innanzitutto voglio 15 ascoltatori online. Brava, non te lo facciamo online. Mia era Madonna. Sentiteci. Ah, non si dicono queste cose. Vai, vai, Andrea, che stiamo parlando di una... Innanzitutto, vogliamo salutare i nostri 18 ascoltatori che, voglio dire, quelli si collegano. Abbiamo 15 persone online che hanno fatto questo sforzo di ascoltare noi e soprattutto Giovanni Allevi che sta suonando. E sta pure cantando. Aspetta, c'è il ritornello. Sognare perché sei te che fai battere il cuore a me. Ok, grazie Giovanni, grazie Giovanni. Giovanni, fatti rivedere le corde vocali perché tu... Stavi parlando di Rosetta. Stavo parlando dei nostri giotto ascoltatori prima di parlare di Rosetta. Ah, scusa. Innanzitutto volevo dire ai giotto ascoltatori che mi si è chiuso Google, la pagina di Google, per cui ho preso tutte le notizie. Ma chi sono questi giotto ascoltatori? Chi sono questi giotto ascoltatori? Chi ci ascolta? Batto un like. Battete un like e sicuramente ci saranno. Ma la gente adora sentirci per podcast. Sì, non, noi in diretta non c'è. Noi siamo note indifferita. Ma sì, noi sì. Purtroppo abbiamo tutti qua nel nostro la nostra clac per guardarci. Altro che DJ TV, guarda qua. Da chi? Comunque, stavamo dicendo, salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo le giote che stasera non sono qui, Antonietta e la piccola Flavia. La piccola Flavia che c'ha una piccola malattia, è malata. Sì, c'ha l'ebola. No, a parte gli scherzi, è influenzata. C'è l'ebola. E chi vogliamo salutare più? Salutiamo Peppe che è qui. Ciao Peppe. Ciao, Peppe. Poi la lanciamo la nuova rubrica. No, qual è la nuova rubrica? Ah, vieni in me, oh signore. Come? Gesù. È una rubrica? Questa è la sigla della rubrica. Vieni in me, oh signore Gesù. Questa è la canzone che cantava Maria quando doveva rimanere incinta di Gesù. Che diceva, oh vieni in me, oh signore Gesù, nel senso, capito? Se non vieni, non facciamo più. Comunque, per la rubrica, oh vieni in me, oh signore Gesù, ci sono due importanti notizie dal Vaticano. Pare che Brosio abbia trovato la conferma che Dio esiste. E tutti i creazionisti. Brosio? Brosio, Paolo Brosio. Brosio. Sì, pensavo fosse un caso di. No, no, no, non è omonimo, è lui, proprio lui. Quello ho capito chi è. Quello che faceva anche la domenica. Chiro la domenica in, infatti. No, no. Fatto domenica quelli che in. Calcio. Quelli che insieme a Idris. Sì, sì. Ok. Idris. Pare che abbia scoperto Brosio come sia la prova dell'essenza di Dio. Essendo che Brosio ha avuto dei figli, l'esistenza di Dio è la prova che Dio esiste, questo è il suo teorema, e il fatto che l'abbia scopato. E la resistenza di Dio? La resistenza formula di Dio è che pare che Gesù sia morto con nuovi elementi che vengono direttamente da Giacobbo, che è andato in Terra Santa a scavare. Morte di Gesù, nuovi elementi fanno pensare a un gioco erotico finito male. Che gioia. Ma tu, insomma, tu devi leggere le ma questa è la di Repubblica sempre? No. Tu devi leggere la notizia sul lercio, quanto in realtà la giustizia dovresti vieni in me, Signore Gesù. Prego, faccia pure. Un'altra notizia. È bellissimo che tu tipo ti crei le rubriche per ogni puntata senza dire niente. E noi come delle minchie tipo ci mettiamo d'accordo anche per 5 minuti. Sì, noi abbiamo fatto anche una scaletta. Tu hai distrutto tutto. Va bene, mi dici la rubrica. Prego, faccia anche pure. Come vuole. L'ultima notizia. Si chiama la rubrica, scusa. Ovini mio Signore Gesù. Pare che Dio abbia fatto causa agli Scicchitano perché gli hanno venduto dei preservativi scaduti che, che l'hanno fatto rimanere incinta alla Madonna, e quindi poi c'è tutto il burdello che è venuto dopo. Tre religioni sono divise, cose. Cioè in realtà il figlio di Dio non doveva venire, era giusto una cosa così. Poi con i mucciaccio degli Scicchitano, che ricordiamo che no, è nato bucato e poi è andato, cioè, praticamente lo stampo industriale che fa il mucciaccio c'ha già un buco. E se è maschio c'ha le gambe, se è femmina c'è il triangolino della donna. Puoi scegliere anche quale vuoi. Okay. E uno è blu e uno è rosa. Quindi state attenti. Se non volete tutte le femmine, completeli divisi. Io per esempio ho completato per maschi. Uh-huh. Le femmine non ne voglio. Non ne vuoi. Permetti che poi pure loro usano i mucciacci. Poi prima trova femmine, nipoti. No. Voglio, da 15 ascoltatori siamo scesi a 2. Ma com'è possibile? No, dai, non vi è piaciuta Vieni in me, Signore Gesù? No, secondo me non è piaciuta proprio a nessuno. Non è piaciuta proprio a nessuno. Vabbè, fate voi che fate meglio. Prendiamo questa scaletta del cazzo. Mandiamo una bella canzone che ci può portare già troppo. A proposito di religione, per le parrocchie sarà obbligatorio dal 2015 esporre il cartello dove si fanno molestie ai minori. Ma ho letto. Dici che quelli che vendono i cartelli non stanno riuscendo ad evadere le richieste. Ok. Beh, se qualcuno vuole aprirsi un'impresa in questo momento di crisi, può fare cartelli per parrocchie. Ma rimaniamo nella religiosità, Andrea. Parliamo di questa cometa, stella. Ecco, sì, stavamo dicendo per l'appunto. Diciamo che rimaniamo sia nella religiosità che... Religiosità-tevi. Sì, che nella storia delle molestie. Allora, iniziamo con le grandi... storia delle molestie. Allora, parliamo di questa cometa. Insomma, se ne è parlato tantissimo. Come si chiama? Il nostro punto di... Come si chiama? Rosetta. No, come si chiama la cometa? Rosetta. No, non si chiama Rosetta. La sonda si chiama Rosetta. Come si chiama? CP? 67P. Che bel nome che ha. È proprio come la cometa di Gesù. Come si chiamava la cometa di Gesù? Come si chiamava? 67 puttana la Madonna si chiamava, esattamente. E appunto, per rimanere in tema, sappiamo, insomma, è stato emozionante vedere come, insomma, siamo scesi sulla cometa. Ma qualcuno, come siamo ascesi alla cometa, come Gesù. Ma qualcuno non l'ha trovato interessante tanto. No, per niente, anzi l'ha pure criticato aspramente, dicendo che vabbè, a parte il fatto che ci sono state due critiche abbastanza forti, ma a noi interessa quella del del TG4. Mi hai colto in flagrante. E mi hai colto in flagrante. Stavo facendomi i cazzi miei. Beh, che hanno fatto. Che Flavia mi correggeva l'altro giorno. Diceva: ma tu parli di TG4 di che ti sorprendi. Che no, dico una minchiata clamorosa. Ma vogliamo, insomma, vogliamo analizzare un pochino quello che vai ci ha insomma, l'aspetto G4. Dai. Dal punto di vista, tu te lo ricordi? L'avevi invece... trovato poco fa, eccolo. Ho cercato di rimuoverlo. Io sto cercando ancora di rimuoverlo. Ha detto un sacco di cose simpatiche. Tipo che io sto tirando dentate per al i nostri microfono. Ascoltatori che non avessero seguito le vicende, anche leggi se leggi un po' l'articolo. Allora, cosa ha detto? Che se c'è un corpo celeste che ci affascina, come forse anche più della luna, questo è una cometa, l'astro con la coda luminosa visibile anche di giorno. Uno passò sopra la natività, uno si è visto con sorpresa e stupore giusto l'anno scorso a novembre. Pensa, e giustamente Focus, perché ho letto su Focus. Si teneva a precisare che la cometa Ison, che è quella che insomma... Cometa? Ison. Ah, ho detto iPhone. Erano proprio messaggi subliminali, si stavano sì. Noi facciamo pubblicità alla Apple. Ma poi siamo sponsorizzati Apple. Comunque, scusa, stavi dicendo? Ah, l'avete sentito l'audizione di Apple Store? Aspetta, la cometa? iPhone? Cosa faceva? Niente, è passata l'anno scorso ed era attesa da un sacco di tempo dagli scienziati. Cioè, la stavano proprio aspettando, erano tutti lì con i nasini all'insù che aspettavano. Dici che erano io di una volta, andranno Barux, la cometa, dice, esce fuori, capo di vazione dai. Ma dici che la cometa si piega? Si piega? A cosa? Che senso? È come l'iPhone che si piega. Ah, okay, si piega la cometa. Bello, questo è interessante. Comunque a Londra, non so se avete sentito, siccome c'era un calo di vendite di iPhone, hanno inventato il nuovo Apple Store. Mele al posto dei telefonini. Ah, mica hanno fatto male. Questa è diciamo. Repubblica, sì. No, sto scherzando. Adesso che hanno fatto? Agli Apple Store adesso vendono le mele al posto dei cellulari. Che gioia. Come diciamo? Sì, leggi il pezzo di Focus, poi mandiamo un pezzaccio. Sì, no, stavamo dicendo che poi un altro passo, vabbè, saltiamo un po' di cose perché voglio dire, sono anche raccapriccianti. Un altro passo interessantissimo è, ecco le immagini nude e crude che ci manda un grosso sasso polveroso. Su questo sasso fra poche ore scenderà un robot, farà un buco nella superficie e fa quasi male sapere che il trapano è stato costruito in Italia. Marina, ti ha fatto male questa situazione? Sì, molto. Ma lo sai che il TG4 ha risposto alle sì, critiche mosse? Le critiche? Sì, sì. E come? Praticamente dice... in pratica il TG4 ha minimizzato e ha sostenuto di aver voluto toccare solo un aspetto triviale della missione, che le comete non sono quelle che la gente si immaginava, ovvero una scia di luce sopra la capanna di Gesù Bambino. Noi, tu, signora Pina, scusi, lei sempre così se l'è immaginata la cometa? Io quando faccio presepio, sì, c'è minta comete già sopra la capanna, sì, chi era la cometa? Che stella cometa, c'è scritto pure. C'era un uomo, scusa. Io ci vendo una bella ponda. La signora Micuzza. Una ponda, proprio gli ripuntali che ti tocca sopra a sì, casa sì. C'è di rimane uccidi. Perché l'albero si muove durante la notte e ci gira circo. Un pendolino Newton l'ha vista, maestra. Gira proprio una capiaica. Cacca, non è che siamo fissiati. Scusi, a casa signora Micuzza. Non signora Micuzza, è signor Franchi Paniani. Infatti, ma mi sembrava che avessi fumato un po' di sigarette. Allora, Franco e Panianco. Franga. Mina femmina. Scusate. E non c'è spoglia. La signora Pina vi deve dire una cosa. Che boh, dici che c'è di dare una... Mi dai caccia di dare ragazzi, cosa? Ragazzi di Edra, chi era? Franco, mi sta rompendo sai un che cazzo, ti dico? Che ma la tifana! Cioè tu ma... non ti fai neanche, vedi si può fare una cosa per chi si capava una cagata minchia. Tu e cosa ci sta cazzi non ci ha capito niente, non ci ha capito niente proprio. Che ti vengono pizza di sissinta che la cosa senza bene ti sbamba di Edra, non c'è capo, ti lascia in bronda. Che doveva dirci la signora Pina prima no, che... No, tu dico, tu dico dopo, non ti preoccupare, nemico. Sì? Non dovevi fare nessun annuncio? Non no, dire tu dico dopo. Una canzonetta. Canzonetta. Non ce la vuole la signora Pina, ce la passa una canzone. Che canzone ci passa per insomma coronare? Allora, qua su un video c'è scritto Jay o della vita non ho capito un cazzo. Faccio come scrivono sti giovani. A Jay si usa pure l'italiano.

Ma tu, tipo a livelli di proverbi, te la cavi? Che ne so, tipo il lupo perde pelo, perde il pelo ma non il vizio. Tipo, che ne so, la gatta all'arco che ci lascia, certo, un zampino. Sì. Poi ce n'è uno famosissimo, quello religioso. È più facile fare entrare un cammello nella cruna di un ago. Che poi è difficile capire, ma che cos'è la cruna dell'ago? La parte... Scusi, signora Pina, lei se ne intende. Allora, no. Tu hai mai cucito, signore? No, a me le cose me le cuce ciccio poco. Vabbè, però hai visto come si cuce, no? Allora, hai visto? C'è chi una cosa che è l'ago, no? A differenza dello spillo che c'ha la capocchia, l'ago c'ha la cruna, che è upertuso, e disinfila l'ago. Upertuso? Upertuso. Disinfila? La, è un filo, scusa, no, signora. E minchia, come si attenta tu, e dimmi. E io ci tieni a queste cose. Sì. Ha capito, quindi chi è la cruna? Sì. Quindi immaginati, tu hai un cammello che c'è in ma lago. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro famosissimo con gli aghi, ma Andrea. Cercare un ago in un pagliaio. Ma tu lo sai che per le grandi inchieste di Repubblica, questo ti volevo far dire questa notiziona. Ma tu lo sai che per le grandi inchieste di Repubblica, tra le grandi inchieste di Repubblica, c'è proprio la notiziona shock. Sì. Sfida vinta a Parigi, trovato l'ago nel pagliaio. Pare e tu non lo sai che c'è gente che ci lavora, ci perde soldi, ci fa in queste cose. Poi sì, dicono che il giornalismo italiano è in crisi, eh. Beh, bisogna anche dire. Vai su barepubblica.it. Ma aspettate, perché bisogna solo la Repubblica. Vabbè, poi ne abbiamo un'altra. Aspettate, perché il bello della notizia non è tanto che sia stata la Repubblica a pubblicare, insomma, la notiziona che sia accaduto a Parigi, grandi capitali europee, ma addirittura è un italiano ad aver il geniaccio che ha trovato l'ago nel pagliaio. Tu lo sapevi? Originario del Trentino Alto Adige. Vabbè. Piero, tu lo sapevi? Tu lo sapevi che è stato ritrovato, l'ago nel pagliaio? Ma stiamo scherzando? Guarda la foto, guarda la signora come è attenta. Sì, dovete aver trovato l'ago nel pagliaio. Guarda la signora, guarda la signora come è attenta. Insomma, ragazzi, e pare che questo sia, oddio, è dato il tizio, questo italiano a Parigi, Juan Schalber. Si è dato 48 ore di tempo per portare a termine la sua sfida, è in un museo parigino d'arte contemporanea. Ah, praticamente era una performance artistica. Sì. Consisteva nel ritrovare l'ago che il presidente del museo aveva nascosto nella mattinata. Quanto ci ha messo? Non lo so, aspetta che vediamo. Meno di due giorni. E quindi danno pure dei meriti. Dicono che si è distinto per la sua performance. Meriti formativi. Sì, perché lui già sono parecchie volte che fa performance simili a queste. Tipo, una volta ha mangiato funghi velenosi. Ah, pensavo mettesse proprio in opera i detti. No, lui fa delle minchiate assurde praticamente. Tipo, una volta ha mangiato funghi velenosi, una volta ha passato 24 ore in una stanza con una vacca, una volta ha tagliato i rami dell'albero su cui era appeso. E queste sono notizie di un'agenzia internazionale famosissima che è Reuters. Ciccio Pupo. Franca Frangipania. Franca, questo è un servizio pubblico. Lei si è mai... A proposito di servizio pubblico, avete sentito l'ultima che è uscita fuori dal Vaticano? Che è successo? Hanno fatto una nuova linea aerea. Quale? Amen. Abbiate fede, volate con noi. A proposito di Amen, Andrea, io devo dire una cosa. C'è uno che vuole sa proprio una benedizione, proprio a un certo livello. Di chi stiamo parlando? Chi è? Non Povia. Io avrei detto Povia. A parte Povia. Lui ha bisogno di un viaggio a Lourdes. A parte Povia. Ragazzi, facciamo un appello. Che sulla pagina di Giotia da Lettere c'è un video pubblicato da lui per il suo compleanno che... Per l'amore di Dio. Faccio un appello. Conoscere Povia Ambrosio e facciamolo condurre a Međugorje. Ne ha bisogno. Vai. È un ragazzo bisognoso. Oh zii, siccome io mi ne emo, vedo un'ultima anticipazione cinematografica dell'anno. E diciamo poco. il nuovo Colossal girato tra Paniango e Kiri Mignoni Bosco da Nicola, no? C'è un altro cadavere là. Il nuovo Colossal si chiama Alive. La prossima volta prendo il treno. Sponsorizzato da Amen, la nuova linea aerea del Vaticano. Grazie. Ciao, vi vediamo dopo. Ciao Franca. Ciao Fra. Portano i buoni nomi da Pania. No, stai in un codo al cabacata che dici che c'è un'università e a pigliare un guaglione. Io non ce l'ho mai vista su università. Io mi sembra un guaglione che assaglia, un cropolo, ma vanno là, dici che vanno a studiare il business. Chi che si vanno fanno non lo saggio. Comunque noi a Paniango abbiamo aumentato il business di case in affitto, do supermercato, per gli studenti, do Pullman e do spaccio naturalmente che tu vuoi aiutare a disciavare, si da di pagare in getto. E noi ci avviamo. Onest. Bene. Signora Franca, se n'è andata. Signora Franca, se n'è andata. L'ha lasciato così. No. Così. Poco... Cioè, l'ha lasciato così. No, mio Dio. Pensavamo fosse tutto finito. E ancora è triste. Ho tirato un'altra dentata al microfono. Mi sto staccando gli incisivi ogni volta. Ragazzi, dobbiamo parlare di una cosa seria. Ah, a proposito di cose serie, ma chi sarà vero che mi hanno tirato? All'Italia ha fatto la nuova tratta Milano Lenate e Milano Malpensa. 2 ore e mezza ci vogliono. Tu cammini in bispa a tangenziale, cammina poco e ci sei arrivato. Gratis. Bella cosa, ottimo. Amen. Insomma, stai parlando di una persona. A proposito che... del nord, che, la signora Franca ci diceva del nord. Stavamo parlando di una testa di cazzo del nord, della Lega Nord. Che no... Una, Salvini. La Lega Nord è la testa di cazzo. Sì, amen. A parte fateli questo. Volare con Amen. Ca... Arrivano sicuro. Salvini in tanti post di tipo 2 ore fa, no? Per esempio su Facebook, ha scritto un post. Mo. Venerdì alle 18 incontro i cittadini, tra parentesi, quelli per bene, cioè quasi tutti, di Bologna. Al cinema Fossolo ci sono più di 500 posti, tu ci sarai, mo. Come ci capano tutti i cittadini? Dice che tu... Bologna hanno 500 posti. Dov'è Pisciatore? La mia madre genitrice? Pisciatore, Pisciatore. Infatti... Genitrice! Dove è genitrice? Genitrice. È andato un attimo in bagno. Poi dice, tipo 3 ore fa, dice che lui è a Salerno con la Lega a parlare di lavoro, immigrazione, Europa e futuro, e i centri sociali sono fuori, tiè, a urlare, dai. Dammi una spenda, vedrai che volerò. Dai, rompemi la macchina, vedrai che piangerò. Ma facciamo un poco di servizio pubblico. Dai, Andrea. Facciamo un po' di inglese, dai, ragazzi. Un po' di servizio pubblico. Yes. Allora, signora Franca, secondo lei come si dice la H in inglese? H. Vediamo. Tipo, Huffington Post. Come? Huffington Post. Help. Si dice... Help. Ma voi vengo un capisci tenendo piedi per il culo a chissà, ma un po' un capisci di proprio una minchia. Chi sei giù in Australia? Allora parlano un po' ciusciano. Si è imparato l'inglese australiano perché doveva parlare col primo ministro australiano su pacco muco ala, su poti a portare a casa, che dice che la figliacella si mi dà ciancia quando ha visto la televisione. Poverino, non padre come deve fare? Come deve fare? Voglio sapere. Io quando lavoravo alle ferrovie dello Stato, mio figlio voleva un genino. Io che faccio, signor Taro? E poi se me ne è fregato uno sano vero, no? Vedo che era con niente a Natale. Poi tu dici, pensa tu, si lavorava dall'Italia e voli all'aeroplanino. Abbiamo un bello Boeing 747, mo perché già andrà a casa. Usavo figli cedo come era con niente. Ai, papà, ti amo, papà, come sei il papà più bello del mondo. Scusi, signora Franca, ma come ha fatto a diventare padre? Deve sapere, figli, c'è un gioco. Che c'è un gioco, no? Allora, io sono per vedute aperte, apertissime. Siccome mio marito aveva affacciate sul parco. Sì. Aveva la pensione mio marito, no? Mo c'è una legge che dice che solo l'ammazza il marito togli una pensione. Io l'ho ammazzato però mi si è fatto scorgere, mi hanno dato la pensione. E mo vi allora, state autodenunciando. Sì, però io mi sono sposata, mi faccio un cops, come si chiamava? Non ricordo cosa fa Prodi. Un Pax. Quella vicina da casa che te ne è benedica, te ne attendi che i soldi che lasciano di ricchi. Cioè, ti pare che faccio lui a meno, ovviamente te lo dico. E quindi sono diventato padre. Padre, c'è come tuo geno. Onesto. Pensa se lavorava alla NASA, che ci poteva portare lo Space Shuttle. Uno spacecraft. Una rosetta, penso. Un panino. Ma lo sai che su rosetta è stato trovato tracce di. Lo sai che la rosetta si fa con una mortadella? Ci va di già che le mignoni in merda, per piacere. Ecco, è proprio su questo che il TG4 avrebbe dovuto appellare. Molecole organiche. È la mortadella che è rimasta do panino. A rosetta, se ci minda la mortadella, al paese mio, non capito. E su un giappoggia peroni, si proprio una minchia. Ma mortadella e galbanone? Ma chi adesso galbanone ti sta venendo dalla Francia? E caca, cosa non sape, mangiate sempre ma galbanone? Ma chi? Noi li mangiamo mortadella svizzero. E che un svizzero ti cacciano piccante lo salamino. Va bene. Grazie signora. Ma che ne pensate di... Andrea, devi dire qualcosa o mandiamo un pezzaccio? No, ci dico io cagando. Preferiamo il pezzaccio. Per l'amor del cielo. No, Alive. Per l'amore della rosetta. Il nuovo Colossal de Paneyango e Bosco de Nicola. Per l'amore della rosetta vi beccate rovina power. Proprio. Alive. Sì, perché insomma, raga, dobbiamo... Sentite, sponsorizziamo il nuovo film Alive. Girato tra Pane Bianco e Bosco de Nicola, cioè a via Nicola Serra. E era meglio che avesse pigliato scusi, il cielo. Scusi, un po' spento. Allora, questa è una... Ecco. Figlioli, una... questa è... Basta! Andrea non va nel Salvini della situazione. Un dall'altro casa Paolo. Allora. Pensa si lavorava la cosa Concordia Aquilium a Natale ci ha visto portare una nave sana. Ma scusa, l'introduzione sul pezzo io non l'ho capita. Non l'ho detta di fare. Appunto, dico, vai. Questa è una canzone importante di denuncia sociale. Ok, ragazzi, perché? Contro le scie chimiche. Ho tutto. Qui dall'aula. Adesso fatevi una domanda e datevi una risposta. Che cosa andiamo ad intendere con scie chimiche? Ce lo spiegherà Romina Power. Prego. Questa è... Seppelliamo amici e familiari, ma niente fermerà la nostra libertà. Non vogliamo più che vinca la paura, non vogliamo scie chimiche in un cielo blu. Il mondo va guarito insieme per poter in pace vivere. We've got a man. Triste avidità, non pensavo a tanta umana cattiveria, non pensavo che la terra la riducessimo così, perché, per chi? La musica sorvola le barriere, si infila in che si accende dentro noi, ci innalzerà. We've got a message, we've got a message. Se abbiamo una voce per dire, la guerra deve finire. Abbiamo un messaggio. Portar essere felici, sapendo che non siamo tutti liberi. We've got a message. We've got a message. Se abbiamo coscienza per dire, la guerra deve finire. Abbiamo un messaggio da portare al mondo intero. Dobbiamo trovare la luce e poterci capire. Dobbiamo trovare l'amore se vogliamo volare. And listen and repeat. And and vai. Because questa era la via. And Ottimo. Tipo lezioni di San Giovannese, queste sono lezioni di inglese Byron. Reading English, reading English. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Insomma, ragazzi, di che cosa? Saliamo la scaletta, perché prima il Ciovuvo c'è l'anticipato e sempre per la sezione Le grandi inchieste, le grandi repubbliche. Ecco che ci sovviene questa bellissima notizia, questa tristissima notizia. Ti dicevo prima che si connette proprio alle molestie. Difatti, in Antartide si è sviluppato questo increscioso caso dei pinguini violentati dai leoni marini. Oh, poverini. Non sì. Se lo meritavano. No. Che dice la notizia? E niente, dice che è un caso che gli uniscienziati di Pretoria, quindi in Sudafrica, sì, hanno osservato i mammiferi. Ecco, questo era un leone marino che cercava di molestare un pinguino. Hanno osservato i mammiferi nel tentativo di accoppiarsi con i pinguini su un'isola sperduta del sud antartico. I pinguini, sì. E pare che non sia una cosa, una scoperta recente. Loro, questi leoni marini sono, così dice, quando un fatto si verifica, sono seriali, ecco. Ecco, il primo caso era stato segnalato nel 2006 in una isola sperduta sempre del subatlantico. In un noto programma di... in un noto telefilm di Rai 2 direbbero che è un SI. Sì, NCIS. No, SI. Cosa? SI, sapete che vuol dire? Cosa? No. Soggetto ignoto. Però in questo caso non è SI. Lo sappiamo che il leone è marino. Che ok, fa SI. Lo sapevo. Coglione. E non era un caso isolato, cioè praticamente gli scienziati hanno proprio osservato il leone marino mentre cercava di accoppiarsi col pinguino, il povero pinguino. Che, giustamente, cioè non so se avete presente il leone marino, ce l'hai presente il leone marino? Sì, ecco. Come fa il leone marino? Il leone marino è una specie di foca, però è un leone marino, è un leone marino però. Marino? Dov'è Rino? Rino suona. A proposito di Marino, Andrea, il sindaco di Roma, che ha fatto? Non lo so, Mary, questo me lo devi dire tu. Ha fatto una minchiata. Ha fatto pezza. Ha fatto pezza e gli hanno fatto una multa con la sua panda. Il pandino rosso. Cicci, ma dico io. Hai prestato il pandino a Marino e ti hanno fatto una bella multa. Ti è arrivata a casa. Roma. Ti è arrivata comunque, la multa a parte gli di scherzi, Roma. Davvero da Roma mi arrivò una multa col mio pandino rosso. Ma al di là degli scherzi, davvero. La guidavi tu? Ovviamente no. E dov'era questo pandino rosso a Roma? Boh, non lo so, pare in zona traffico limitato. Via Salaria. In mezzo a Piazza del Popolo, diciamolo. No, non lo so, davvero. Ma comunque hai lasciato il pandino Marino? Eh? Lasciate il pandino Marino. Marino? No, Marino? Rino? No, non abbiamo la notizia. Abbiamo delle minchie. Ok. No, niente, non abbiamo studiato per stasera. Però possiamo sempre studiare l'inglese. Se c'era Flavia, lo sapeva. Perché Flavia... La P come si dice in Renzi English? Non lo so, però ti posso dire la N. Vai con la N. Come? Signora Pina, qui fanno delle pernacchie. Ma chi sarà la N? Sì. La S? Dicemela poco, come si sente la S? Shishi. E la X? Sai come la dice la X? Come? Zz. E la K? Zz. Però possiamo pure esagerare. È difficile. Because we can't get the work... Because... Vai, Andrea. Because... Ah. All'uscita delle cuffie. Vai, collega, all'uscita delle cuffie. Yeah. Proviamo un momento, vai. Lanciane una. New ideals. Sì, sì. Vai. And this is also the second answer. Come sono bravi questi ragazzi di Fuori Onda Radio. Avremmo Because we can together work for the new ideals for Europe. And this is also the second answer. I believe. Poi, grazie a Dio si interrompe. Because lunch. Questa era la L. E adesso la N. E la Z? Questa era la N. Cos'è? La cosa era questa, proprio l'altra cosa. Crazy viene a cosenza. Comunque, sorvolando sull'ignoranza di Renzi, anche se devo dire la verità, forse dopo Monti è stato l'unico a parlare in inglese. No, perché c'è stato Letta. Letta pure se la sentiva. Pure Salvini a parlare in inglese. Salvini non sa parlare in italiano. Salvini ha detto don't take the tombini. Dei tombini, appunto. Sì. Cioè, per favore. Sta contando. The big Salvini. Yeah. Don't take the tombini. E poi niente, Magic English non è piaciuto. No. E niente, mandi un pezzo. Ne un pezzo. A proposito, aspetta, questa è la prossima cosa è il porcodrillo. Giusto? E noi ci chiedevamo prima come facesse il verso, come il verso del leone marino. Com'è il verso del leone marino? È il verso del pinguino? Il verso del pinguino. Mentre viene diventato fa. Però il porcodrillo. Noi sappiamo come fa il porcodrillo. Il porcodrillo. Il porcodrillo come fa? Il porcodrillo. Il porcodrillo. Corni. Porcodrillo. Poppodrillo. Il porcodrillo. Alexandra. Vai col. Cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Che oh! Come fa il cane? Dio cane! E il gatto? Dio porco! L'asinello! Orco Dio! La mucca! Dio boia! La rana! Dio canaia! La pecora! Madonna puttana! E il coccodrillo? E il coccodrillo! Il coccodrillo come sa? Dio schifoso cane! Non c'è nessuno che lo sa! No, nessuno, Gesù Cristo, non nessuno! Si dice mangi troppo, come cade il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Che ho! Dio schifoso cane. Non c'è nessuno che lo sa. No, nessuno, Gesù Cristo, no, nessuno. La mia mano strilla, sorseggia camomilla, e mezzo addormentato si ne. No, fai mona. È possibile, porca Anna la Madonna. Guardo sui giornali, non c'è scritto niente. Sembra che problema non infarti. Porco Dio. La mia domanda ancora questa. Che ho? Il coccodrillo come fa? Dio schifoso cane. Non c'è nessuno che lo no, sa. No, nessuno, Gesù Cristo, no, nessuno. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Oh, danna la Madonna. Il Dio schifoso Ken. Non c'è nessuno che lo sa. No, nessuno, Gesù Cristo, no nessuno. Avete capito? Ma non si riesce a capire un cazzo! Lui mezzo addormentato se ne va! Avete capito? Avete capito? Avete capito? Avete capito come fa? Come fa il porcodrillo? Come fa il porcodrillo? Come fa il porcodrillo? Come fa? Come fa? Come fa? Porco Dio! Come? Come? Porco Dio! A proposito di porco Dio... cosa avrà detto mai il tipo che ha creato la scultura più piccola di sempre quando gli è stata, quando distrutta, gli è stata distrutta da un collega? Da un... Aspettate, raccontate per bene la cosa. Vai, vai. Poi il commento, ovviamente. Raccontaci, Mary. Praticamente... Parica si inizia. Questo signore, Parica... Parica? Parica su Cristiano. Jonty, che si chiama già Jonty. Già c'è problema. È un artista sudafricano che vive a Londra. E praticamente questo qui crea nano sculture con una stampante 3D. E praticamente per far capire l'unità di misura di queste sculture, ci sono delle immagini e si vede che praticamente sono così piccole che stanno su una fibra, su un capello praticamente. Questa per ce n'è anche un'altra. C'è anche un'altra, Andrea, che dovrebbe interessarti, sì. Che era dentro la cruna di un ave. Sì, addirittura. Questa qui, questo omino che era dentro la cruna di un ago. Praticamente questo qui, oppure tipo una che amore psiche. Quindi era sulla... un cammello può passare attraverso la cruna di un ago. Basta che, era un, basta che lo si... un nano cammello. Un nano cammello lo si realizza con una stampante 3D in circa 100 micrometri, che corrispondono a 0,1 mm di altezza e 80 micrometri di larghezza. Ma capì? Questo è... Ma questo è scienza, è fonte scienza. Si definisce, secondo me. Ma non stiamo all'Inghilterra. Ma chi l'ha rotta? Chi l'ha rotta secondo voi? Lanciamo un sondaggini. Un sondaggini. Ma chi l'ha rotta? Lanciamo un sondaggini. Ma chi ha rotto la scultura di Joanne? Jonty, Jonty. Amico Jonty. Ah, che ropita. E tu che ne pensi dell'arte quantistica? Sono stata agitata proprio a giudizio. Sì, praticamente anche noi nel nostro comune, nel nostro centro sociale, quello di quello là, quello tra il Lazio e l'Abruzzo, sì, ho portato un mio amico. È partita una bestemmia. Sì, era molto sentita. Ripetiamo. Fondo. Parla, Andrea. No, sto dicendo. Mannera Madonna. Ecco, questo è il ripeto di questa. No, io non sono per le bestemmie. Comunque, questo volevo dire. Niente, praticamente non ci diamo il nostro centro sociale per i fatti che stanno accadendo in questi giorni. Noi non vogliamo che venga recuperato. Ma che ropita, sai cos'è successo praticamente? Cioè, questo signore praticamente realizza, è laureato in ingegneria a Johannesburg. Io sono contraria. Sei contraria all'ingegneria? Sei contraria. Sono contraria alle lauree. Praticamente. Perché io, zi? Dice la zio, perché sei contraria? Perché l'ingegneria. No, le lauree in generale non c'entra l'ingegneria, non c'entra proprio niente, la scienza, le lettere, la filosofia. Ecco, sono proprio contro le lauree perché rientrano in uno stereotipo di cultura indotta. Abbiamo pure il disturbatore Pierpaolo. Comunque, se anche noi nel nostro centro sociale occupato facciamo delle mie nanosculture, però noi le facciamo con le caccole. Quindi voi non usate una stampante 3D, tipo per esempio qui la tecnica che è stata usata è un processo particolarmente complesso, si basa sulla scansione di forme umane con una serie di fotocamere disposte in una stanza. Ogni statua viene poi scolpita con una tecnica nota come litografia multifonica, multifotonica, perdono, Noi la facciamo caccolofonica. Caccolofonica, bene. La facciamo caccofonica, la facciamo con le caccole del naso quando... Perché comunque abbiamo le... cioè abbiamo fatto uno studio, perché noi comunque all'interno del nostro centro sociale occupato abbiamo anche una piccola... abbiamo laboratorio, università, dove insomma facciamo le cose e piano piano in pillole. Aggiungiamo un tassello. Ma anche voi, un piccolo sassello, ma anche voi vi ispirate tipo, che ne so, a opere celebri come Amore Psiche di Canova, oppure che ne so, a opere e sculture famosissime dell'arte neoclassica? No, no, sono contraria. Cosa scolpite? Perché la merda. Cosa scolpite? La merda con le merdole. Cioè, noi per essere vicini, diciamo... Dici. Idiomi africani. Ah. Cioè noi idioti africani. Idiomi africani. Cioè noi cerchiamo di trasformare in scultura la lingua dei nostri fratelli africani. Capito. Più o meno le dimensioni come sono delle vostre sculture? Vabbè, tieni conto che una caccola sta in un'unghia. Ok, quindi si parla di millimetri. Sì, proprio anche di centimetri a volte, a seconda della no, micrometri. Dipende. Ci abbiamo studiato che comunque certe volte ci sono delle coccole nel naso che possono essere pericolose. Potresti trovarti lì nella trachea. Ah, ok. Sono proprio pericolose, va benissimo scaccolarsi, lo consiglio a tutti gli amici in ascolto. Comunque io vorrei dire che questo signore poverino Jonty aveva allestito la mostra delle sue opere in un museo e praticamente un collega durante l'allestimento gliela portate via, distrutte per sempre con un dito, poverino. Cioè, allora, schiacciate con un dito, ma l'ha fatta apposta? No, non lo so, non penso. Perché se l'ha fatta apposta sono contraria. Qui dice che le ha inavvertitamente distrutte con il dito, allora però è arte. Insomma. È arte... arte distruttrice. Sì, è arte. Però c'è un'altra grande bella notizia per i nostri amici informatici che curano le cose. Ragazzi, mi dichi? Sono nate le chiavette USB made in Italy, quindi vi potete insomma made in Italy. E quindi insomma potete evitare ormai di questi proprio per quelli di Casa Pound, chiavette Casa Pau. italianissime, possiamo dire. Sì, sì, super sì. Italiane. Ma cosa hanno di particolare queste chiavette? Giusto per capire, insomma, a parte che sono fatte in Italia, quindi no, la notizia che vi dovrebbe rallegrare, secondo me, è che non dovete più... Allora, a parte che sono a forma di costruzioni di Lego. Oh, che gioia. Che non dovete più ordinare chiavette dall'estero, tipo dalla Cina. Anche questo, secondo te, dove da dove arrivano le cose? Allora, l'articolo parte con famola strana. Abbastanza da dover aguzzare l'ingegno per aprirla e infilarla nel computer. A pensarlo oggi, il vecchio floppy è prestore digitale. Ai, IMO, aggiungerei pure, cioè IMO. Anche CD e DVD sono stati quasi del tutto calpestati dalla storia, no? Vedi sopra. Non più solo piatti contenitori di dati, le chiavette USB sono un fenomeno creativo. Ma la fanculo, come? E gli artigiani italiani, senti questo, gli artigiani italiani... il motore più fantasioso della rivoluzione digitale. Aziende giovani italiani. Cosa ce ne facciamo della ricerca quando in Italia si fanno le migliori scarpe del mondo? E praticamente queste chiavette sono state prodotte da aziende giovani, nate per gioco, che oggi esportano in tutto il mondo. Quindi insomma dovreste essere contenti. Perché l'idea come gli è venuta? Personalizzare le chiavette per le aziende degli anni in cui le prime USB entravano sul mercato e quindi l'hanno fatta a forma di lingotto d'oro. Ma stiamo parlando di 20 anni fa. A forma di Lego. No, si sono svegliati chi? Nel legno, a forma di personaggi dei cartoni, a forma di anello. Sicuramente. Quindi dovreste essere insomma contenti, secondo me, che ora esistono le chiavette made in Italy. Credo che comunque stanotte continuerà a dormire come ho dormito fino a oggi. insomma, gente, sei sicuro? Io avrei paura. Anzi, forse meglio. E ci sono anche da 32 mega e costano 32? Solo 50 mega e costano solo 32 no, no, no, 32 mega. Grandi per dimensioni ma piccole di memoria. Quindi non parlano un cazzo. Forte di memoria. E tra l'altro il vanto di queste cose è che sono care e preziose. Anche 50 euro l'una. Allora, giusto per... Hai capito il made in Italy? Allora, vorrei farvi capire solo un attimo una piccola parente informatica. I floppy disk, ce l'avete presente i floppy disk? I vecchi, i buonanimi. Erano da 1,44 mega. Cioè vuol dire che sa cacata su una trentina di pennelli di floppy disk. Guarda, ti posso dire il punto di vista. Io c'ho un amico di mio padre che ha voglia gigabyte che mi riesce a fornire. Guarda. Ieri eravamo in B. Beppe, oggi confermi? Siamo questa. In serie. Bello sottofondo. Domani non ci saremo più. Baglio son guachitemo. Comunque, scusa, stavo dicendo che il vanto di questa azienda di Matteo Fabbrini, che ha 32 anni, che si chiama Maiki, dice che il suo vanto è che vendono 1 milione di pezzi all'anno. Perché lui dice. Perché lui dice che loro sono i primi e gli unici, per fortuna. Praticamente lui viaggiava in direzione Cina per commercializzare prodotti per l'azienda del padre. Oggi lui ha capito che deve commercializzare queste cose qui perché il Made in Italy tira. Un po' come il John Elkann della... Ragazzi. Che gioia. Giustamente commentava... E tra l'altro c'è una crescita a questa azienda, il 40% ogni anno. Cioè, guai, ci sono minchioni che comprano pennette a 32 megabyte. Perché la gente vuole una pennetta, vuole una chiavetta particolare. Ma comprati un pezzo di legno intagliato, ma non una pennetta a 32 megabyte. Non ci menti manco una canzone. Allora, Matteo dice che le compri perché ti piace, non perché ti serve. In Natural Grill ne hanno venduto migliaia. Aspetta, ripeto, ti compri un pezzo di legno intarsiato. A mangicogna. Quindi un gadget di prima necessità. La scaletta. Andiamo avanti con la scaletta. Aspetta un attimo che do istruzioni per l'uso. Stiamo andando a minchia. Quando parlo fuori dal microfono sono comunicazioni di servizio. Non dovete ripeterle necessariamente. Perché sennò parlo io direttamente al mio. Allora, stavo dicendo, che cosa prevede adesso? Ma non che dobbiamo troncare la discussione. Cosa prevede d'ora in poi la scaletta? Oltre allora. No. No. Dici. Adesso sappiamo. Puoi parlare tranquillamente. Una splendida notizia sul Ku Klux Klan. E poi direi che possiamo mandare, proprio per concludere, le conclusioni, i saluti e una bella canzone di System of a Down, che sarebbe Shame on You, Nigga. Perfetto, ok. E così proprio, terminiamo così. Va bene, ok. Quindi oltre a dire che questi qua... A me fanno vergognare. Meriterebbero veramente, se è possibile, ancora di più di essere italiani. E questa è stata però, notizia del Corriere, per favore, per le grandi inchieste del Corriere della Sera. Siamo sempre della stessa parrocchia, siamo, insomma. Sì, sempre là siamo, non è che cambia tantissimo. Invece passiamo invece alla stampa, quella seria. La stampa seria. Sì. Te l'avevo lercio. Bellissimo, vai. Marina, io te l'avevo lercio. E voi dicevate. Il 28 agosto del 2013 Lercio pubblicò questo articolo circa il crollo di adesioni all'interno della setta Ku Klux Klan. Che pare, secondo Lercio, avesse deciso di aprire, insomma, le iscrizioni ad altre etnie. Perché? Perché non c'era nessuno, aspetta, si iscriveva. Cioè, quindi giustamente per mantenere vivo, magari pure alle persone di colore, sì, possiamo aprirle, no? Sì, sì. E dice però appunto che Butch Mendelsohn è una di quelle presenze rassicuranti con cui passeresti volentieri una domenica con una birra in mano. Una birra in mano e un palo nell'altra, probabilmente, diciamo. Sì, sì, avesse una spranga di ferro. Detto che loro non facevano, che il Ku Klux Klan non avesse deciso di non fare differenze cassa, ceto o religione, rinnegando quindi proprio, diciamo, i principi del Ku Klux Klan. Questa è una lerciata. Ma la notizia vera? La notizia vera del 10-11-2014 è che il dall'Huffington Post, lo prendo, che il Ku Klux Klan si rinnova e apre le sue porte alle iscrizioni di neri, ebrei, gay, lesbiche e ispanici. Ripeto, cioè non chiamatelo troiaio a questo punto. Blu. Non c'entra niente. Blues Clan. Vabbè, comunque tanto. Quindi, diciamo, e loro sono proprio a caccia di sogni fresche. Diciamo che siamo abituati ormai dai partiti post ideologici in poi. Siamo abituati a qualsiasi stronzata ci viene proposta. Quindi va bene anche questa a questo punto, no? Ah, ecco. E aspetta, Andrea, ho capita questa cosa. Cos'hai è capito? È una trappola questa. Ah, dici che li fanno perché entrare. Perché li fai attirano, entrare e non li fai uscire. Li attirano. Ce li fai rimanere. Ha capito? Insomma. Chi se toglie con poi ci fanno spirti, una passipalate. Ma a proposito di notizie assurde, praticamente la contentezza di Salvini sta nel fatto che la regione Lombardia ha deciso di delocalizzare la nebbia in Sicilia. Di delocalizzare? La nebbia in Sicilia. Ah, ok. Poi c'è un'altra notizia che viene dagli esteri. Praticamente un 14enne ha comprato due pistole e un fucile a pompa per far credere ai genitori di frequentare il liceo. Invece, giusto, insomma, anche serio. Questo mi sembra. Sì. Ecco. Noi, insomma. E lanciamo il pezzaccio legato al Club Blues Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Ok. Minamo. E let's go, allora curupezzaccio. Let's go. Sì. Rosso blu. Andrea, immaginati come avrebbe cantato Renzi sta canzone. European pronoun because. Bene. Insomma, siamo arrivati al termine. Sì, salutiamo. Abbiamo terminato. Sì, allora salutiamo la signora Pina, Cicchino. Arrivederci, signorina. Franca di Panianco e Franco di Panianco, che sono la stessa persona. Poi la signora Micuzza, che non è potuta essere con noi perché a Dresda oggi faccio io che ti dica che non mi preoccupare. Salutiamo Flavia che non ci ha ascoltato. Tamarra, tamarra Flavia, ma la ricordo il podcast, ma la ricordo Flavia, Flavia. Antonietta che per la prima volta è andata in un cantiere. Oh, che gioia, piove, cantiere ladro. O cantiere bagnato, cantiere fortunato. Sì, potremmo. E questi sono detti che si mettono in pratica, certo. Come proprio l'ago nel pagliaio. Certo. Io volevo salutare il nostro inviato nell'Europa dell'Est, che ricordiamo tutti ora è diventato un piccolo pallino blu. Ciao. Quindi non gli piacciono più le zucchine lunghe, no, perché quelle si trovano solo da queste parti. Gli piacciono che ne so, che verdura l'est. Oblunga c'è nell'est. Ma credo che i cucuzzi ci sono stesso. Cartofen, sì. Boh. E comunque ci manca. Ci teniamo aggiornati per la prossima puntata, sì. Sulle verdure oblunghe dell'est, per capire cosa effettivamente il nostro inviato si è andato a ricercare. Che poi tipo vedi nel sottofondo va che vita di merda, proprio per giustificare l'esistenza. Un mondo difficile. Sì, felicitiamo Manny. Felicitiamo Manny. In pratica non perdetevi la prossima puntata, che si parlerà di queste verdure oblunghe. Si parlerà nella prossima puntata, si parla di verdure speciale verdure oblunghe. Anzi, chiediamo ai pochi che ci stanno ascoltando, le 15 persone che ci stanno ascoltando, di fare una ricerchina magari. Avremo un ospite, Rinino, che ci parlerà di verdure oblunghe. Marino, verdure verdi. Verdure oblunghe. Nella prossima puntata parleremo di verdure oblunghe dell'est. Ok, Europa. Quindi salutiamo tutti quanti. Ciao amici. Ricordiamo che stiamo trasmettendo da Fuori Onda Radio in aula P2 occupata. Anche a Fuori Onda Radio sono le 21:26. Su fuoriondaradio.altervista.org potete sentirci e i podcast saranno pubblicati a breve delle nostre bellissime puntate. Sì, stasera puntate. Dovrei riuscire a farlo, visto che finalmente è quasi automatico. Oppure saranno pubblicate come gli affitti in nero dell'Università della Calabria dopo 5 anni. Aspetta, no, non fare spoiler, perché questo sarà sicuramente oggetto della prossima puntata. Okay. Noi abbiamo aspettato Flavia. Ok. Abbiamo aspettato Flavia per parlarne. Sì. Allora dai, a mercoledì prossimo. Ciao mi. Ciao da Ciotie dall'Etere. Ah, segnale questa. Ciao. Schifo. Questa è.